ce l'hai assicurato. Di questo il posto tuo sei pure assicurato. In fondo è una famiglia, c'è pure l'affetto. Via dalla mia famiglia, se no poi ti affetto. Sin dalla pad, non è venuta. Sin dalla pad, non sei nuda. Sin dalla man, non è venuta. Faccio cadere la campagna, non siamo pure alla spiaggia, ci faccio calare, facciamo un bagno. È vero che sono sventure e problema, ma sotto sotto non stiamo buona. La respiriamo, mica veleno. La rima da fuori c'è la murgia, una donna, l'aria almeno. Anna Fatima la mandava, ci nupi.